Ecco Antonio, salto sempre su una tematica, come dire, sociale. In questo caso passiamo da un problema di relazione fra uomo e donna nel contesto degli afroamericani a un problema di coppia di lesbiche. Ecco, questo film Concussion, che è in corsa a Sundance, mi ha colpito molto perché ripropone una differenza, secondo me, sostanziale tra quella che è la percezione della, tra virgolette, normalità di una coppia gay in America. Questa è una coppia di donne che hanno dei figli, vanno a una partita di baseball e una delle due viene ferita da un colpo di uno delle mazze da baseball, e dunque tutto il film ruota intorno a questo incidente, ma non al fatto che le due sono lesbiche, perché è normale. Da noi non è così. Da noi abbiamo visto un grosso dibattito, per esempio quando c'è stata la candidatura dell'Esso De Giorgi, gay.it, cioè si va a prendere qualcuno che è un militante. Da noi ancora non sembra esserci la normalità, ed è stato sensazione l'articolo recente di Roberto Saviano su questo. Ecco, volevo chiedere a te se condividi questa differenza di avanzamento sociale per l'emancipazione dei diritti dei gay in America rispetto all'Italia. Ma hai colto un punto fondamentale. Qui la problematica, diciamo, omosessuale è considerata con assoluta e totale normalità. Il film racconta l'incidente esattamente come se avvenisse ad una coppia eterosessuale. La regista è una donna, si chiama Stacey Passon, che è anche l'autrice, e questo sottolinea, un esordiente, sottolinea quanto questo sia un film personale, e questo a maggior ragione rinforza l'idea che ha voluto raccontare con uno sguardo personale una cosa che vive con assoluta e totale quotidianità, normalità. Rispetto al nostro paese, ora non, questo non mi astengo completamente da un giudizio, c'è uno sguardo completamente diverso. Tu hai citato l'esempio del gay.it, del candidato, se non sbaglio nella lista civica di Monti, ma questo si potrebbe estendere a qualunque altro schieramento, a qualunque altro partito. Da noi è un'eccezione, qui invece è una normalità senza la davanti. Ecco, ma perché secondo te? Semplicemente perché siamo indietro? Cioè, sia io che te viviamo a New York... Non è una questione di indietro o davanti. Ne farei una questione di diversità, di apertura rispetto a tante sensibilità differenti. New York è la città che accoglie geneticamente ogni sguardo, ogni tradizione, ogni cultura, ogni religione, e quindi inevitabilmente ha un approccio diverso dal nostro. Noi siamo, senza arrivare alla old Europe, come diceva un politico di qualche tempo fa, più unidimensionali, quindi inevitabilmente per noi questo è non dico inaccettabile, ma ancora non normale, non considerato come qualcosa che si vede come senza doverne appositamente scrivere. Già il fatto che io e te ne stiamo discutendo significa che noi europei notiamo questa differenza. Beh, però notiamo perché notiamo che il dibattito interno è molto diverso rispetto a quello a cui credo io e te siamo abituati qui, almeno immagino te. No, ma noi ci troviamo in una situazione di privilegio, cioè noi possiamo avere uno sguardo sui due continenti e notiamo la differenza, ma probabilmente questa stessa chiacchierata tra due colleghi, tra due amici americani non avverrebbe. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che abbiamo parlato del Sundance Festival a Park City, a Utah, un posto meraviglioso, devo dire, una cittadina fantastica d'altri tempi, direi di dedicare a quel film che ha ispirato il Sundance Festival, e cioè Butch Cassidy, di cui abbiamo parlato con Antonio Munda poco fa. La colonna sonora è rimasta storica come il film, Burt Bacharach, Rain Drops Keep Falling on My Head, composta appositamente per il film, è diventata una delle canzoni più famose del mondo. Rain drops are falling on my head. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!